Venerdì 16 ottobre a Roma, con un atto di disobbedienza civile, un gruppo di cittadini ha occupato l'ex lavanderia dell'Istituto Santa Maria della Pietà, un tempo sede del manicomio provinciale. Gli occupanti si sono riuniti intorno al comitato promotore della delibera comunale di iniziativa popolare sul Santa Maria della Pietà. Un comitato che segue l'iter della delibera firmata da 9.000 cittadini per chiedere al Comune di Roma l'acquisizione comunale e l'uso sociale e culturale della struttura. Abbiamo sentito Carla Ranieri per conoscere meglio le richieste del comitato e le motivazioni dell'occupazione. Il problema è che i locali della lavanderia, così come anche altri locali dell'ex manicomio provinciale, sono adibiti dalla ASL che la gestisce e dalla Regione Lazio che ne è proprietaria ad un uso che noi riteniamo improprio, in quanto è un uso non finalizzato ad uso sociale e culturale come avrebbe dovuto essere. In particolare la lavanderia è uno dei padiglioni che sono stati ristrutturati nel 2000 con i soldi pubblici della legge sul giubileo, la legge regionale, e avrebbe dovuto diventare, in un accordo che era stato espresso, un luogo appunto di promozione sociale e culturale, insieme ad altri padiglioni che invece erano stati ristrutturati sempre con gli stessi soldi pubblici per farne strutture di ricettività per turismo povero, che invece sono o non utilizzati per questo uso, oppure proprio addirittura un paio destrutturate e destinate ad uffici sanitari. Il punto è che tutto il complesso gestito dalla Regione e dalla AS viene risanitarizzato e anche vengono inserite dentro strutture neomanicomiali, cioè le ex degenti che rientrano nelle case famiglie di fuori, che la legge Basaglia ha sparso sul territorio, vengono rimesse all'interno per meri calcoli economici. Siccome questo è l'ex manicomio di Roma e siccome è un luogo simbolico forte, noi pensiamo che vada restituita alla città e che ne venga fatto un uso sociale e culturale. In questo senso, in questo quadro, si inserisce l'occupazione, l'atto di presa di possesso da parte dei cittadini della lavanderia e anche la delibera di iniziativa popolare, la delibera comunale di iniziativa popolare che è stata già presentata da tempo alla Comune di Roma, firmata da 9.000 cittadini, in cui si chiede al Comune di prendersi in carico il complesso, di aprire una trattativa con la ASL e la Regione Lazio per l'uso, per uno scambio, per acquisirla al patrimonio comunale e per restituirla alla città per risarcire la ferita che ha costituito il manicomio. E la delibera deve essere ancora discussa in comune, chiediamo anche questo, chiediamo che gli spazi vengano restituiti alla cittadinanza e che ne sia garantito l'uso aperto, pubblico e non sociale e culturale, e non certo la risanitarizzazione voluta dalla ASL, in perfetto contrasto con la legge Basaglia peraltro. Il 18 settembre alle ore 12 si è svolta presso la sede dei gruppi comunali di Roma una conferenza stampa con la presenza di una rappresentativa del comitato promotore, la parlamentare di Rifondazione Comunista Elettra Deiana e alcuni consiglieri regionali e comunali che già in passato avevano dimostrato la loro solidarietà per la vertenza. Massimiliano Taggi del comitato ci riferisce com'è andata. Abbiamo ribadito ragioni sia di questo atto che riguarda la ex lavanderia, sia complessivamente le ragioni che ci portano a questa battaglia complessiva su tutto il comprensorio del Santa Maria della Pietà. I consiglieri Bartolucci e Spero sono impegnati ancora una volta, perché già l'hanno fatto, a fare una battaglia perché il Comune di Roma anche prenda in carico questa questione attraverso l'ipotesi d'acquisizione, che è l'ipotesi della delibera firmata da 9.000 cittadini. E gli altri rappresentanti istituzionali hanno espresso solidarietà a questa iniziativa e hanno sottolineato un po' gli elementi che mettono insieme questa vertenza con la vertenza più generale che riguarda la salute mentale, i diritti dei pazienti psichiatrici, il tentativo di non tornare a produrre nessuna forma di manicomio, la battaglia perché i servizi decentrati del territorio in linea con la legge Basaglia siano garantiti. E quindi anche la battaglia contro i tagli che la Regione Lazio sta facendo a questi servizi. Quindi è una battaglia a tutto tondo, è una vicenda che riguarda tanti aspetti, non ultimo il valore simbolico di un luogo che nessuno può considerare come un luogo qualsiasi, perché è un luogo che ha rappresentato per questa città un valore enorme dal punto di vista sia della sofferenza che vi è passata attraverso, ma anche del riscatto che sempre da quel luogo c'è stato con la conquista della legge Basaglia e della chiusura dei manicomi. Non pensare a un utilizzo che tenga conto di tutto questo significato sarebbe un'occasione sprecata per tutti. Per questo siamo alla ex lavanderia, per rivendicarne l'uso pubblico al centro socioculturale, ma per questo continueremo a fare una vertenza su tutto il comprensorio del Santa Maria della Pietà e più in generale sulle questioni ad esso connesse.